Io domani ti rompo i coglioni, ti spacco la faccia, ti finisco di handicappare. Senti bene la mia voce, non ti azzardare a telefonare più, che sia stata l'ultima telefonata che fai questa sera, perché io domani vengo a casa tua e ti finisco di handicappare. Tu hai handicappato, lo dici, a quella bagaccia, ma tu hai capito, brutto coglione froscio. Adesso ti mando la questura, capito? Che non so dove abiti, froscio. Io ti sto avvisando, non ti azzardare a telefonare più, non rompere più i coglioni, perché domani avrai a che fare con la questura, ma tu, con me personalmente, te lo dico una volta e non te lo dico più. Oh, ragazzi. C'è questo appostante, il grande amico di Marcolino, perché non gli dici di finirla di mettere appostante? Perché vuol dire che ci prendete gusto per voi a rompermi i coglioni? Con chi stai parlando? E non te lo dico adesso, te lo farò vedere domani mattina con chi stai parlando in questo momento. Ti farò passare la voglia di rompere i coglioni col telefono. Perché io sto parlando dal baracchino di Marco. Che ti arrivano non è Marco che te li fa e tu hai già un periodo che stai rompendo un po' troppo i coglioni. Allora io ti farò vedere come riuscirò a romperteli io e definitivamente. Nicolis, ti sto avvisando. Però non ti posso parlare un po'. No, un attimino solo, Mario, un attimino solo e poi vi lascio il canale di più. Un attimino. Comunque ti dico una cosa, non so che non è Marcolino, però questo che mette importante è l'amico di Marcolino, e Marcolino ci deve piangere però per capito. Se tu veramente non ci tieni alla mia salute, va bene, tanto lo sa Marcolino che è questo è importante, capito? Armando, quello che conosce lui, capito, che mette musica che fa casino, capito, perché dice così io schiatto, io crepo, io faccio, va bene? A me non voglio sapere nemmeno chi sei, chi non sei, può essere più picco per essere qualsiasi. Perché fino a che uno scherza, gioca, ride e fa importante è non rompere le scatole. Come stanno rompendo il coglione? Vuol dire che c'è anche Marcolino a livello? O se non c'è, sa lui come fare. Io lo so perché ho telefonato, per vedere se rispondeva lui o la madre. Poi a me, capito, può stare pure a dormire, può stare pure fuori, come vuole lui, capito? Io ti ho detto, se non vuoi essere rotto le scatole, non le rompi anche tu agli altri. Io ti ho spiegato questo per te. Ieri non te lo rompo le scatole perché non l'hanno rotto a me. Hai visto cosa vuol dire rompere le scatole per telefono? Hai visto come mi dà fastidio? E così dà fastidio a me proprio. Io Marchino, ti ho detto, pago 15.000 all'anno, anzi 30.000 adesso, capito? Se no me la paghi tu la concessione e io posso rimanere pure con Marchino spento. Ma a te questo non ti sta bene, perché non è colpa tua, lo so. Io sto parlando con te a modo che a Marcolino e mette un po' la testa a posto. Perché non è che ho telefonato, sì, ha detto aggredito, lo ammetto, ho detto parolacce, lo ammetto. A Marcolino no, non è stato zitto. Perché ho telefonato a te, a modo che a Marcolino lo mettevi un po' a posto. Non è che io voglio... Ci tolgono in Marachino, a me non me ne frega niente, non parlare al plurale, perché tu a me non mi conosci. Non sai chi sono, quindi inutile che parli al plurale. Tu adesso qui hai rotto le palle, c'è l'altra gente che parlava, si sono lamentati. E allora quelli cosa devono fare? Gli devono telefonare a casa. O Falcone o De Nicolis, abitante, devo dire pure la via e il numero di telefono, come fai tu? Non te le conosco. Devo fare come... Va bene, io adesso non telefono più alla, come dici tu, alla signora Clara, va bene? Però quando vedo di nuovo che mettete importante, o Marcolino, o chiunque sia, va bene? Poi vediamo se qua come la dobbiamo mettere, capito? Io ti ho detto, l'ho scontrata solo oggi. È l'altro giorno, perché quando non rompono le scatole, perché com'è? Allora già che Marcolino fuori, gli togliesse Barchino dalla camera sua, allora io dico, beh Marcolino non c'è, pazienza. Come Marcolino quello che piace a casino, e poi si lamenta, non mi fanno parlare, mi mettono un po' tanti, e mi fanno scherzi, per forza fanno scherzi. Se lui rompe il coglione